24 di Giovanni Minoli. La Stampa, 4 gennaio. Renzi, Italia basta, cappello in mano. 16 ottobre 2015. Renzi, soltanto noi in Italia abbiamo idea che bisogna andare in Europa con cappello in mano. 4 novembre 2014. Renzi, non vengo in Europa con il cappello in mano. 2 luglio 2014. Renzi, non possiamo andare in Europa con il cappello in mano. Io ho provato a dirlo, dice si va in Europa con il cappello in mano, intanto si sta in Europa perché l'Europa è casa nostra e non ci si va con il cappello in mano, con il cappello in mano, con il cappello in mano. Presidente Prodi, buongiorno, da mesi abbiamo sentito Renzi dice no all'Europa col cappello in mano, vabbè, ha ragione Ma, mi sembra ovvio, ma voglio dire il cappello in mano cioè, ormai ce l'hanno tutti Senta, ma negli ultimi anni è stata un'Europa dell'austerity a guida tedesca, questo è sicuro. È questa la politica che ha fallito in realtà? Beh, qualcosa di più. La guida tedesca ha sbagliato l'economia e quindi ha reso molto più grave la situazione, ma l'Europa è in una deriva di sfrangiamento, una deriva di dissoluzione se continua così, perché ogni paese fa la sua politica col cappello in mano o senza. Senta, ma la Merkel quindi ha fatto solo gli interessi tedeschi? Beh, la Merkel prevalentemente gli interessi tedeschi, perché è ritornato il principio di nazione. Ogni paese che ha visto avanzare i populismi più o meno ha adottato una politica di distacco dall'Europa per controllare la sua politica nazionale. Adesso però, dopo i fatti di Colonia, la Merkel improvvisamente chiede aiuto a tutti. Non è un po' tardi? No, non è che chiede aiuto a tutti, non è vero. Fa appello alla solidarietà, che quasi etica, morale, di comprensione, in questo senso per un episodio così brutto, sì. Non ha tutti i torti, ma non è che chieda provvedimenti e chiede una politica. Qui l'appello, cos'è l'appello? Se non c'è un'azione politica comune, l'appello non è niente. L'appello, il cappello in mano, tutte queste cose. Che politica facciamo per l'Europa? Sono parole, dice, parole inutili. Ecco, ma Schengen, per esempio, parlando di cose concrete, sembra non reggere più, quasi quasi non ci crede più nessuno, proprio a partire dai paesi del nord. È di lì che comincia il crollo dell'Europa? Sì, il punto non è che cominci da questo, perché già con i lunghi anni della Commissione Barroso il potere si è spostato dagli organi comunitari ai paesi. Le nazioni sono diventate le padrone. Poi, applicando questa dura posizione su Schengen, hanno cominciato a dare dei colpi molto gravi all'Europa, perché Schengen, bisogna dirlo agli ascoltatori, è il simbolo dell'Europa, esatto, no? È la libertà di circolazione, è la gente che può andare in giro senza passaporto. Insomma, è la generazione Erasmus che diventa una regola in qualche modo. Se togliete questo, ma che Europa rimane? Ma quindi c'è anche un fatto culturale dietro questo fallimento in qualche modo? Beh, c'è una scelta politica, sì. Sì. C'è una scelta politica di rinazionalizzare tutte le decisioni e quindi veramente di allontanarsi nella sostanza dall'Europa. E quindi lei dice, insomma, in qualche modo è d'accordo con Napolitano, se non capisco male, cioè se salta Schengen definitivamente salta tutto, il senso dell'Europa non c'è più. Beh, tutto, poi ci si può sempre rimediare. Certo, naturalmente, però. Non dimentichi che l'Europa ha avuto delle altre crisi gravissime. Pensi alla sedia vuota di De Gaulle, per cui la Francia non partecipava neanche alle riunioni. Poi, quando è arrivata di fronte al dramma, si è ripreso coscienza, però oggi gli attacchi sono di vasta, vasta dimensione. Pensi a tutti i paesi europei che hanno avuto tanto dall'Europa, dell'Europa orientale che hanno avuto tanto dall'Europa, la Polonia ha avuto i più begli anni di secoli di storia, mai stata così. Ma sono i primi a avere i dubbi adesso. E sono i primi a essere contro. appunto, addirittura contro, appunto. Comunque, senza un esercito, senza una politica estera, solo con l'euro, ma che cosa resta dell'Europa dei popoli pensata dai padri fondatori? Niente. Resta poco, però stia attento, perché sull'esercito e sulla politica estera tutti sapevamo che sarebbero arrivati in fondo, come ultimi, perché sono veramente l'ultima parte del concetto di Stato, no? Certo. E non è che rimanga però solo la moneta, e la moneta non è mica la roba economica solo, il fondamento dello Stato di Vestfalia, dello Stato moderno, era l'esercito, la moneta, mettendo insieme la moneta, non era un gesto economico, ma era un gesto politico. È che anche questo viene messo in dubbio da una mancanza di solidarietà. Senta, però Kissinger scrive: l'Europa è un gigante, dice anzi, l'Europa è un gigante economico, un nano politico e un verme militare. Insomma, si lega un po' a quello che stiamo dicendo. Il verme militare cosa vuole? Si è mantenuta questa la NATO come la prima, quando c'era il problema dell'Unione Sovietica. La NATO offre un ombrello totale all'Europa, e gli europei un po' furbini e un po' che non pensano al futuro più di tanto, dicono: ma perché dobbiamo spendere per l'esercito quando c'è questo potere americano che ha basi dappertutto, che controlla il mondo? Se io ce l'ho Beh, l'autonomia però è sempre più lontana, se uno diventa difficile dirsi voglio dire, attenzione, questo non è solo un problema europeo, è un problema di rapporto fra Europa e Stati Uniti. Certo, non c'è dubbio, appunto, okay. Assolutamente, ci arriviamo a questo, ma perché oggi però è così difficile sentirsi europei? Cioè, sembrano quasi popoli contro i burocrati. È una fotografia giusta dell'Europa di oggi o è una forzatura? Beh, dipende. Sì, non è che il sentimento europeo sia crollato del tutto. No, però è sempre meno forte. Beh, certamente di fronte a questi continui... Di fronte, vede, ormai tutti i paesi fanno la politica nazionale accorciano le decisioni. Cioè, io guardo solo alle... Però contemporaneamente ci sono le cessioni invece di poteri anche verso le burocrazie europee. Sì, ma le burocrazie europee, intendiamoci bene, sono state fortissimamente indebolite. Cioè, voglio dire, la Commissione, che è il simbolo della burocrazia europea, adesso praticamente è la segreteria del raduno delle nazioni, che si chiama Consiglio in Europa, no? Consiglio europeo. Qui è cambiato, siamo all'opposto, cioè è cambiata la forza di unione dell'Europa. Esatto, sì. E la gente dice: ma se non c'è più Europa, perché io devo appoggiare l'Europa? Esatto. Ma qui il problema è che ne abbiamo troppo poca. Troppo poca, appunto. Però in realtà la Bibbia dice: tu non sei né caldo né freddo, io ti vomiterò. Questo dice la Bibbia, no? Questa è l'Europa di oggi. Però i popoli sembrano più consapevoli dei governanti, che così non si va da nessuna parte. Allora mancano i leader. Il punto è quello, che diano anima a questa Europa esangue. Minoli lo scopre adesso. No, non lo scopre adesso, ma lo chiedo a lei, che la conosce bene. Voglio dire, quando c'era Kohl, e soprattutto, attenzione, è cambiata proprio l'Europa, perché lei ha fatto la giusta domanda: mancano i leader. I leader, esatto. Non ci può essere un solo leader. No, esatto, esattamente. E oggi l'Europa non è più come la chiamavo io 10 anni fa, una unione di minoranze. No, infatti, non lo è. Pensi che bella definizione. Bello, sì, l'Europa, unione di minoranze è una bella cosa. In cui nessuno prevaricava. Oggi c'è la Germania che nei consigli europei detta la regola insieme ai suoi paesi vicini. Nella Commissione c'è il capo di gabinetto della Commissione, che è onnipotente, e si va via tranquillo. Quindi, ma questa non è leadership, perché la leadership vuol dire rendersi conto dei problemi di tutti. Cioè, gli americani americani, vinta la guerra, hanno fatto il piano Marshall non perché facevano la carità cristiana, ma perché intelligentemente capivano che dovevano comandare un gruppo forte, che dovevano essere leader di un gruppo forte. Ma lei li vede dei leader all'orizzonte? Non si rende conto di questo. Ma lei ne vede di leader all'orizzonte in Europa? Eh no, ma ne nasceranno pure. No, no, ma le chiedo se le vede, piccolini, ne vede da qualche parte? No, non li vedo. Non li vede. Si rotama, poi vedremo. Senta, intanto la Germania sembra quasi alimentarla questa rottura, però, perché predica l'Unione così più o meno, ma poi fa accordi bilaterali sul gas con la Russia. Allora? Questo è un fatto gravissimo, che io solo ho denunciato già da 6 mesi, poi tutti hanno taciuto, poi è saltato fuori il resto. Cioè, diciamolo agli ascoltatori brevemente, c'è una tensione forte sull'Ucraina fra Unione Europea e Russia. La Germania è il più severo, il più duro paese sulle sanzioni, non ne vuol sapere di attenuarla, e però con la Russia il più grande accordo economico che ci sia, il massimo della contraddizione politica, degli interessi nazionali e basta. Non solo, ma che pregiudica il futuro, che, cioè, che cambia il futuro dell'energia europea, perché tutta l'energia arriverà dalla Germania dalla Russia attraverso la Germania. E quindi lì c'è il rubinetto. Ma non solo, ma stia attento, perché di gasdotti ne abbiamo già anche troppi. Certo. Il gasdotto del nord, quello che verrebbe raddoppiato, oggi lavora al 30% della capacità. Sì. Ma allora si vuole tagliare fuori e chiudere i gasdotti che passano attraverso l'Ucraina. Ma siamo matti? Io ho 1000 volte proposto e insisto, bisogna fare una società comune, Europa, Russia e Ucraina, per regolare i gasdotti che passano attraverso l'Ucraina. E quindi bisogna intanto togliere le sanzioni alla Russia, ovviamente. Questo qui non bisogna neanche parlarne. Senta, intanto a proposito di queste rotture, la Francia ha preso un'iniziativa militare in Siria, però l'Europa non l'ha seguita. Un altro segno che ognuno si fa gli affari suoi, sostanzialmente. Qui permette di essere forse un pochino anche paradossale. Dica. A cosa succede in questa Europa in cui le nazioni ritornano a dominare? La Germania si è assunto il ruolo di Presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia. La Francia, che è in una debolezza estrema, fa il Ministro della Difesa. Però lo fa senza accordi. Dopodiché chiede solidarietà, che in alcuni casi si può anche dare, proprio perché c'è tutta questa storia comune. Naturale. Ma la solidarietà va contrattata. Va discussa. Senta, ma così sembra che l'Europa, in qualche modo, mi dica, corregga se sbaglio, può reggere solo quando c'è sviluppo e non ha strumenti e neanche valori per affrontare le crisi politiche e economiche. Sostanzialmente il quadro potrebbe essere questo. Beh, le crisi sono una spinta effettiva. Il quadro può anche essere giusto, il quadro che le dice, ma non è che la crisi non faccia pensare, no? La crisi può essere una molla per andare avanti. Io poi vede solo sull'Europa di lungo periodo, sono poi ottimista, nel senso che se siamo divisi siamo finiti. Io faccio sempre agli studenti un paragone che fa impressione, lo ripeto, mi dispiace, dica, è noioso, cioè nel Rinascimento gli stati italiani erano i più bravi di tutti, in qualsiasi parte, banca, guerra, tutto. È venuta la prima globalizzazione, che era la scoperta dell'America, e non ci siamo uniti, siamo scomparsi per 3 secoli e mezzo dalla carta geografica, perché non sapevamo, nessuno Stato era grande abbastanza da fare per reggere, certo, da costruire le nuove navi, da essere in grado. Ora guardi che è la stessa cosa, le nuove caravelle sono le grandi reti che girano attorno al mondo, che lo circondano, sono Google, sono Apple. E quindi sono se uno Alibaba, è fuori di lì è fuori. E sono tutte americane e cinesi. Se andiamo avanti così noi scompariamo. E io quindi sono ottimista, perché a un certo momento ci sarà pure una necessità assoluta. E De Gaulle infatti diceva che l'Europa o va dall'Atlantico agli Urali oppure non va. Quindi deve essere un'Europa con la Russia. Deve essere un'Europa in accordo con la Russia. Un'unità con la Russia, quando Putin in una conferenza stampa i giornalisti ci fecero questa domanda, la mia posizione era: dobbiamo avere dei grandi accordi fra di noi, ma la Russia membro dell'Unione è impensabile, perché dopo vi sarebbero due capitali, perché la Russia guarda anche all'Asia, perché la Russia ha una dimensione enorme. Quindi noi, il nostro destino deve essere un accordo con la Russia, ma non certo un discorso di unione con la Russia. Sì, ma gli Stati Uniti però sembrano sempre più lontani, anche l'ultimo discorso di Obama. Insomma, in prospettiva comunque Putin è un punto di stabilità anche per l'Europa o no? Guardi, gli Stati Uniti sono in una stranissima situazione psicologica con l'Europa. Nelle università americane si studia sempre meno l'Europa, si chiudono i centri di studi europei, c'è questa strana situazione, un po' perché tutto si sposta verso la Cina, un po' perché è ritornata fuori la Russia, l'attenzione per l'Europa viene meno, anche perché poi pensano scontato che la danno pigro, scontata come ruota di scorta, insomma. Questo pigro accordo, io lo chiamo. La pigro accordo. Si è scontato. Ecco, senta, lei presidente, è stato il leader europeo comunque che più di ogni altro ha voluto l'Europa 28, cioè un'Europa unita e senza guerre. Ha sognato una cosa impossibile, ha fatto anche un errore, forse di velocità. Ma avrei dovuto essere un po' più veloce. Più veloce? Ancora? No, scusi, una cosa. Lei pensi a oggi, se la Polonia, se l'Ungheria fossero come l'Ucraina, cerchiamo di avere un po' di testa. Certo. Cioè, attenzione, il treno della storia passa solo una volta. E se noi lasciavamo questi paesi in balia di nessuno, sarebbe... questo era il sogno, questo era il sogno, però... Ma il sogno è stata la... Non è quello che sta capitando, l'ha appena detto, Presidente. Cioè, certo. Mi sembra, per parlarci chiaro e chiudere, e la ringrazio, mi sembra che lei cominci ad avere dei grandissimi dubbi sull'Europa per come è diventata. Ma certo, la stupidità umana può fare finire tutti i più grandi progetti. In questo momento c'è uno scatenamento di stupidità, come se i piccoli paesi o i grandi paesi potessero far da soli nel mondo. Neanche la grande Germania lo può fare. E quindi questa Europa che c'è oggi è destinata a morire così? Se sta così, sì. Né calda né fredda. In mezzo al guado, il problema mio è che dobbiamo andare nell'altra sponda, dobbiamo far più Europa. Se no, come ho detto nell'esempio, nella parabola, noi scompariamo dalla faccia della terra. Grazie Presidente. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS mi sembra che Mario Prodi abbia idee chiare, eh? Sì. L'Europa è proprio sull'orlo del baratro, vero? Sì, sai, finché lo pensiamo noi qui che facciamo il nostro mestiere, ok, ma è una nostra impressione. No, che, ma detto da Prodi. Che lo dica Prodi, però, insomma, mi conferma tutto quello che penso anch'io. Io sottoscrivo tutto quello che ha detto. Io penso che sia una fase di grande difficoltà, ma la parola non rende in realtà di grandissima difficoltà. Mi sembra che lui ha detto molto di più di che grandissima difficoltà. Crisi e... ha trattenuto la parola più drammatica, sì, ma è siamo all'esplosione dell'Europa. Si sta deflagrando. Ha centrato il ruolo della Russia anche. Ha trattenuto, secondo me, anche quando ha parlato di quarta sponda. Sì. L'elemento mancante, perché l'Europa non esiste, perché manca della sua, del suo orizzonte geografico. Non c'è il Mediterraneo. Non c'è il Mediterraneo, che è il punto delicato, geopoliticamente, strategico, fondamentale per stabilire il limes e il legame stretto con l'Asia. Perché la Russia è quell'orizzonte. È quella strada, è la via della seta. Ecco, Mario... ieri c'è stato il discorso l'ultimo discorso di Obama, sì. Mi sembra Prodi ha detto una cosa molto interessante, questo accordo tiepido, come ha detto, faticoso, insomma, sì. Routinier praticamente, di routine anche, tra l'Europa e l'America. Il professore ha detto anche un'altra cosa, secondo me fantastica, perché pigro, pigro, sì, ha detto, ecco, quella è la parola, la pigro parola, e poi che gli Stati Uniti stanno attraversando una fase stranissima. Detto questo, tu sai che no, cercare la causa esterna è anche, come dire, la via di fuga dei vigliacchi, certo. Si dice in questo caso. L'Europa ha grandissimi problemi e uso una parola gentile perché in realtà è una crisi enorme, e non ha riformato la governance, secondo me, a dovere. È quello che diceva Prodi, esatto, appunto. Sì. E si vede, perché il depotenziamento della Commissione è sotto gli occhi di tutti. Esatto. E prende decisioni lentamente. Su lentamente e unidirezionali, sì. Così dice Prodi, che se ne intende. Insomma, li prende lentamente, a volte su cose marginali e altre volte su cose importanti, ma non le prende proprio. Esatto, ma in maniera poi, e quando le prende in maniera anche, secondo me, molto discutibile. Ecco, noi abbiamo. Però posso solo dire, senza il futuro dell'Europa è sicuramente peggiore. Certo. Su questo, guardate. Lo so, però a forza di peggiore non si riesce a fare il migliore. Ecco, Veronica De Romanis, economista, autrice di diversi saggi sulla Germania, biografa, amica personale di Angela Merkel. Buongiorno, una posizione scomoda stamattina. Professoressa De Romanis, ecco, la cancelliera nel suo momento di maggiore difficoltà, è a rischio la posizione della cancelliera, intanto, secondo lei o no? Tanto buongiorno. Buongiorno. No, secondo me non è a rischio, sicuramente è indebolita, cioè c'è un'opposizione interna al suo partito, c'è un'opposizione anche tra le file dei socialdemocratici che paradossalmente sono loro che chiedono le misure più restrittive. C'è anche un'opposizione che arriva dai partiti anti-euro, ricordiamo che ora l'alternativa per la Germania è salita ultimamente dopo i fatti di Colonia e sta oltre il 8-10%. Quindi, ma appunto, quindi è difficile la posizione, sembra paradossale, ma nel momento in cui la Germania raggiunge il top dell'occupazione arriva questa crisi del leader. Ci sono antagonisti a Merkel oppure sono solo movimenti per adesso? Ma a dire la verità no, i socialdemocratici non hanno un candidato, ma in realtà non ce l'hanno neanche i cristiano-democratici. Qualcuno ha fatto il nome del ministro delle finanze Schäuble come sì, futuro cancelliere, è un politico che ci ha già provato in passato senza riuscirci, ma non so neanche se c'è da augurarselo, perché su molte posizioni di politica economica europea è lui il vero falco, non sì, la Merkel. Lei ha sentito però il presidente Prodi come è stato severo nel doppio binario della Germania con la Russia, da una parte le sanzioni durissime all'Ucraina e poi invece gli accordi sul gas. C'è qualcosa lì di ambiguo, insomma, nella politica della Merkel. Su questo sono abbastanza d'accordo con la posizione del presidente Prodi. Ecco, senta, ma anche il New York Times dice la Merkel se ne deve andare. Insomma, aumenta il fronte almeno esterno, lei dice interno non ci sono alternative, però fuori è una novità il New York Times che dice questo. Ma guarda, io non so ora a che titolo parli il New York Times, non mi sembra che il governo americano parlerà da osservatore. Sì, il governo americano non si è espresso in questo senso e penso siano gli elettori tedeschi che devono decidere. Ma naturalmente, se deve rimanere, ovvio. Sono preoccupati per la gestione, ma però non si parla di mandarla a casa. Quello che a me sembra un po' strano è che ci si è lamentati fino ad oggi che mancava di leadership la Germania. Ora che la Germania, attraverso questa decisione della Merkel, ha deciso di prendere una leadership per quanto riguarda le immigrazioni, augurarsi la sua caduta mi sembra in realtà un po' miope. Il Financial Times però anche lui ha previsto che nel 2016 la cancelliera cadrà proprio sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione. Lei pensa che quello è un tema sul quale può cadere? Un tema che ha segnato, come dice lei, anch'io sono d'accordo, una presa di leadership da parte della Merkel su un tema difficilissimo. Beh, è chiaro che queste posizioni, la politica delle porte aperte ha indebolito la cancelliera, sono arrivate oltre 1 milione di profughi e quindi c'è un problema di gestione. Ora si tratterà, una volta presa questa decisione, di trovare un equilibrio tra accoglienza, diritto alla sicurezza, diritto alla libertà di tutti. La Merkel ha già preso delle decisioni che sono strette sulle espulsioni e soprattutto una decisione molto voluta dai socialdemocratici, non automatismo del beneficio del welfare. I socialdemocratici sono molto preoccupati che questo arrivo di immigrati possa indebolire lo stato sociale tedesco, che sappiamo è molto generoso. Ecco, professoressa De Romanis, però Berlino, lo sentiamo da tutte le parti, Berlino divide. Ecco, non è che i tedeschi stanno pensando di andarsene loro dall'Europa, di ricreare il marco, un euro forte contro un euro debole? Ma no, guardi, i tedeschi non avrebbero nessun vantaggio da un euro più forte, essendo il loro modello di sviluppo basato sulle esportazioni. Durante le negoziazioni con Tsipras, mi ricordo che si era parlato, Schäuble aveva parlato di un euro a due velocità, forse probabilmente sì, anche esasperato dai negoziati con l'allora suo collega Varoufakis, ma la cancelliera non ha mai appoggiato questa idea. Ma secondo lei cos'è che fa sembrare la Merkel improvvisamente non più invincibile? Probabilmente perché ha bisogno di aiuto. Lei ha già detto anche al congresso a dicembre il suo partito, ma anche ora dopo i fatti di Colonia, che non torna indietro sulla politica delle porte aperte. Però è consapevole che da sola non è in grado di gestire questa decisione, ha bisogno dell'aiuto non solo di tutti i tedeschi, a cui l'ha chiesto anche questa mattina dopo quello che è successo a Istanbul, ma anche l'aiuto di tutti gli europei. Certo, questo è quello che dicevamo anche col Presidente Prodi, però c'è lei che la conosce personalmente, c'è qualche tratto del carattere della Merkel che improvvisamente, invece che aiutarla, la danneggia? Ma forse direi il suo pragmatismo. Lei con un certo pragmatismo ha capito che la soluzione al problema dell'immigrazione, che sarà un problema per i prossimi anni, non può essere quella di alzare muri, perché tanto i muri cascano, e soprattutto che la Germania aveva le risorse. Probabilmente ha sottovalutato una gestione di arrivi così massicci e soprattutto ha sottovalutato, a mio avviso, l'impatto sugli altri stati, ecco, dove passano gli immigrati. Abbiamo cominciato parlando di Renzi, che sta ingaggiando una lotta con la Merkel. Secondo lei è una lotta che può vincere? Veramente tutti i leader, i primi ministri che hanno cercato lo scontro con l'Europa hanno perso, si sono trovati isolati. A mio avviso la strategia dei pugni sul tavolo non porta grossi risultati, e tra l'altro secondo me... Veramente strategia... questa volta il cappello in mano, ma insomma non bisogna andare col cappello in mano. No, perché anche una strategia rischiosa, si rischia di alimentare il populismo. Senta, si era fatto il suo nome come consigliere economico di Palazzo Chigi. Ecco, lei cosa consiglierebbe di fare a Renzi nei rapporti con la Merkel? Ma io gli consiglierei di fare politica, ossia fare uno scambio, proporre, aiutare alla la Merkel sull'immigrazione, in cambio chiedere invece della flessibilità fiscale. Dovremmo essere aiutati anche noi sull'immigrazione, mi pare. Beh, infatti aiutando la Merkel aiuteremmo anche noi, ma in cambio dovrebbe chiedere un'apertura sulla garanzia unica dei depositi, invece di focalizzarsi sempre su problemi di bilancio. Questo sarebbe uno strumento utile. Cioè esattamente, dica bene, chiaro? La Merkel è isolata su questa posizione, non vuole completare l'unione bancaria con questo terzo piastro, che è la garanzia unica dei depositi, e per un paese come l'Italia, anche alla luce di quello che è successo nel settore bancario, sarebbe molto importante ottenerla. Ecco, un'ultimissima cosa: in primavera si decide la legge di stabilità, l'Europa dà il suo giudizio, lei prevede una bocciatura o una promozione? Ma tutto dipenderà da quello che succede in questi mesi. Per ottenere la flessibilità richiesta dall'Italia bisogna continuare con le riforme e gli investimenti che per sì, ora... Sì, ma lei come pensa che va a finire? Guarda, sentendo l'aria riforme... a Bruxelles, lei ha dei sensori particolari a Bruxelles, allora, cosa sente? Sulle riforme e gli investimenti dipende se verranno fatti gli investimenti, che per ora nella legge di stabilità non si vedono, e dipende se verrà attuata la riforma della pubblica amministrazione, lo vedremo. Vabbè, domani. Quella domani ci sarà la prima parte. Sì, per quanto riguarda la terza clausola, quella sul bonus ai diciottenni, che sono circa 3,2 miliardi, ho delle perplessità, perché per ottenere questa flessibilità bisognerebbe dimostrare che si tratta di un evento eccezionale. Ora, a mio avviso, è difficile far rientrare nella categoria evento eccezionale la cultura. Grazie. De Romani, sotto 00240024, numero verde 349-238-6666, sms Mario... Ha parlato di Schäuble, com'è possibile in qualche modo, possibile anche se ci ha già provato. Tu che ne pensi? Che Schäuble è un'alternativa oppure no? Dipende da quanto si indurisce la politica tedesca. Schäuble è un falco. Era quello che voleva il Grexit, per essere chiari, temporaneo, ed è anche il teorico del nocciolo duro europeo nei primi anni 90. Nella classe dirigente tedesca c'è gente in gamba, non c'è solo lui, pensate. Ma il fatto di avere Draghi alla Banca Europea per noi cosa significa? Niente, perché noi non facciamo squadra con Draghi. Draghi, cioè, Draghi corre da solo, non corre? Draghi no, Draghi fa il suo dovere, ovviamente, non è che corre da solo, ma l'Italia non è un paese che sta aiutando Draghi in questo momento. Cioè, nel momento in cui Draghi sta facendo un quantitative easing straordinario di più di 60 miliardi al mese, con acquisti di titoli di Stato italiani, massicci acquisti, e non solo titoli di Stato, e Renzi va allo scontro con Merkel, voi potete immaginare che quando Jens Weidmann, capo della Bundesbank, la cara vecchia buba, si siede nel board della BCE, cosa dice? Cioè, la politica si fa così, si fa così, cioè, certo, dalle mie parti, e poi non ecco, so, Pietrangelo si è parlato del paradigma culturale abbastanza confuso che in questo momento non riesce a fare da collante sufficientemente forte per l'Europa. Stiamo in mezzo al guado? Ovviamente non può funzionare il paradigma culturale proprio perché manca il Mediterraneo, che è la prospettiva vera di interesse, di sostanza del progetto europeo. Posso dire una cosa in termini di retropensiero? Di. A costo di sconfinare il complottismo. Vai nel complottismo, che sei un re del complotto. Alla Merkel, secondo me, ne stanno cominciando a fare il trattamento Berlusconi, il trattamento Craxi, dei trattamenti che gli italiani conoscono bene e il cui fondamento fu quello di Enrico Mattei. Sì, secondo me tu vedi la manina americana, dai, diciamola, tocca a lei. Il fatto stesso, scusa, il fatto stesso che Matteo Renzi, che come sappiamo è in uso agli USA, adesso si stia scatenando, sai, come i barboncini quando cominciano ad abbaiare. È un politico che ha delle idee. Sì, diverse. Ma tu guardalo nelle prospettive giuste. Immagina Merkel. Immagina. Tu dici meno Francia, meno Germania, più Stati Uniti nello scenario non complottistico ma politico di Renzi. E alla Merkel, sai, il famoso europeismo di Matteo Renzi dove è andato a finire, no? E improvvisamente è svanito. No, vabbè, però si avvicinano anche delle elezioni. Lo può spiegare bene Mario, sappiamo perfettamente che l'orizzonte di mercato adesso è un altro ed è appunto oltre Atlantico. Sì, ma quello è sicuro. Cioè, e quindi? Oriente. E quindi? Oriente. E quindi secondo me tutta sta roba non sta in piedi della politica europea di Renzi, però come dire, bisogna aspettare che lui faccia il budino, no? Tra un po' lo fa perché quest'anno è decisivo. Cioè, non c'è dubbio. Cioè, vi faccio un esempio, c'è in agenda una cosa... diciamo sostanzialmente, invece che fare più corpo con Francia e Germania, dove però è stato molto difficile per lui passare, mi sembra, lui... Sono passati sopra di lui, però. Non ha fatto squadra, in qualche modo. No, ma scusa, e allora la fa con gli Stati Uniti. Voglio dire, stiamo discutendo... Si vedrà anche di come va a finire in Libia. Libia è un termine. Segue con Badoglio. Comincia la guerra con uno e la finisce con un altro. Abbiamo aperto il vaso di Pandora su questo. Io vi dico questo. C'è una decisione importante dell'Unione Europea entro quest'anno, entro la presidenza olandese, cioè adesso, cioè se dare alla Cina lo status di economia di mercato. Voi direte, vabbè, che cosa cambia? Cambia tutto, perché aprirai il tuo mercato interno, quello europeo, a un'invasione di merci cinesi e così via. C'è uno studio molto serio che dice che può costare milioni di posti di lavoro, punti di PIL. Nessuno ne parla, stanno per prendere una decisione, si riuniranno oggi e il 18. E vedremo cosa decidono. Vi dico io cosa succede, che approvano tutto, magari, i parlamentari europei italiani non si accorgono di cosa non votano, si accorgono di cosa votano, come voteranno come col bail-in. E poi diranno, oh, è successo questo. Una cosa tremenda. Oh, signora mia, è successo una cosa tremenda, ma noi non c'entriamo niente. Poi vai a vedere i verbali delle votazioni, perché quelli contano e loro hanno votato. Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? Mario, quindi tu sei d'accordo con me? Stanno facendo il trattamento bunga bunga la Merkel? È in difficoltà, però non è ancora bunga bunga, non è ancora, ma il trattamento c'è. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24. Alfonso da Firenze, abbiamo Alfonso da Firenze. Pronto? Salve, buongiorno. Dica. Senta, semplicemente questo, volevo fare una critica, un appunto ai fondatori dell'Europa, compreso anche Prodi. Prodi era troppo giovane per aver fondato l'Europa. Tra cui fa autori. Via, sì, diciamo, certo, così. Quello assolutamente. Io volevo dire questo, in sostanza 15 anni fa circa, ancora più indietro, ma in sostanza il cambio dell'euro è stato quello che poi ha determinato nel 2000, il problema. Sì. Perché è stato pensato prima al valore economico rispetto invece ai valori che sono ad esempio la lingua, una cultura, dei valori civili. Vabbè, ma se dovevamo aspettare di avere la lingua comune, forse passavano 200 anni. Non sì, ce l'abbiamo ancora in Italia, l'italiano, si immagina. Infatti, è proprio questo, ma lei vede, mi sta seguendo su questo ragionamento. In Italia, dopo 150 anni, ma nonostante i buoni propositi di Marciniani, di vabbè, Caturi, quindi diciamo che... l'Europa doveva prima fare la lingua della moneta. Il fallimento di quello che si sta verificando parte proprio da questo presupposto. Questa è la mia opinione, ovviamente. Grazie Alfonso. La lingua. Non l'abbiamo fatta in Italia. Partire dalla lingua mi sembra un po' lunga. Allora, Pietrangelo, e tu la canzone? Eccola. Allora, a chi la dedichiamo oggi? No, oggi è successo che in metropolitana... Siamo tornati. Sì, tornando in metropolitana, oggi ho visto una mamma con un bimbo in braccio e il fantolino consolava la mamma che piangeva, perché questa mamma non temeva l'uomo nero, ma Shaitan in persona. E chi è? Shaitan è Satana. Sai io. Ed erano appunto Maria che la mamma e il bimbo è Gesù e lei a un certo punto ebbe addosso la calma che le scese negli occhi e il bimbo la consolò dicendo che il signor Satana, arrabbiato, insomma avendo perso l'anima che credeva di avere, se n'era andato e la consolò con questa ninna nanna. Mario, allora andiamo con la bolla? Sì, una cosa che sembra frivola ma non lo è. Allora, intanto stamattina sono molto anni 70, questi Good Times, Bad Times, primo album dei Led Zeppelin, tra l'altro uscito qualche giorno fa nel 69, fu subito un primo successo, sentiamolo ancora un po'. Oh, chi ha giocato a Powerball? Qualcuno di voi? Chi tu Giovanni? Giocato? No, tu no, mai. Powerball mai. Ma, ma sapete io solo cosa? Lei manco la zecchinetta gioco. No, io supererò ma siete... ma tu sai però che è una lotteria. Questo è già un passo avanti. Sì. Allora, Powerball ha un jackpot per singolo giocatore. Cioè il premio? Premio per singolo giocatore di modica vincita di 1,5 miliardi. Cioè basta che giochi e ti danno 1,5 miliardi. Non basta che giochi, basta che vinci. Ah, bisogna anche vincere, ho sì, capito. Ma, cioè, io vi ridico... E cioè bisogna indovinare uno, una sequenza di cifre. Di quante? Non mi ricordo. Sì. Una sequenza di cifre, non sai neanche quante. È la lotteria americana, cioè, non mica gioco là, lavorare purtroppo. Stamattina, ho capito. No, scusa. Allora, se lo becchi tutto, 1,5 miliardi, però te lo pagano in 29 anni. Se invece... lo vuoi subito cash, ti devi accettare la decurtazione di 930 milioni di dollari, si può fare. Però possiamo considerare che non sappiamo quanti numeri bisogna indovinare. E allora... mica, ma tanto non si gioca in Italia, quindi non lo so. Capisci? Va questo bene, però si può sognare. Va questo bene, voglio dire io. Beh, allora meglio sognare col Superenalotto. Ma che sogno, un premietto. No, ma premietto, insomma, se arriva anche a 30, 40 milioni di euro. Quando arriva a 30, 40 dobbiamo incassare. Va bene. Salamino. Più che le vite parallele, i fatti in parallelo. Prima notizia. 10 marinai dell'esercito degli Stati Uniti sono stati arrestati dai Pasdaran iraniani. I militari americani, a bordo di 2 imbarcazioni di guerra, avevano sconfinato le acque territoriali iraniane sul Golfo Persico. Sì. Una seconda notizia. Massimiliano La Torre, uno dei 2 Marò arrestati nel febbraio 2012, non torna. Arrestato al largo delle coste, non torna in India. Arrestato al largo delle coste indiane e neppure dentro le acque territoriali di Nuova Delhi, vorrei sottolineare, sì, non tornerà appunto in India. Oggi si riunisce oltretutto la Corte di Giustizia Suprema per decidere se revocare il permesso al fuciliere colpito da ictus, e il PD, il Partito Democratico, con i suoi uomini più autorevoli, autorizza a sognare anche la possibilità di far rientrare in Italia Salvatore Girone. Mm. Allora, sono due fatti, sì, due, dove si racconta, Giovanni, il destino della sovranità. I 10 americani che sono stati legittimamente fermati dai Pasdaran già oggi stanno lasciando la terraferma iraniana. E la telefonata tra pari e pari, quella tra i ministri degli esteri delle rispettive sovranità, ha risolto quello che poteva diventare irrisolvibile. L'Iran, lo ricorderemo, nel 1979 non aveva esitato a sequestrare l'intero corpo diplomatico statunitense. E poi c'è anche da segnalare un fatto, che i Pasdaran non rispondono neppure al governo, ma all'autorità religiosa. Mm. E quindi queste sovranità, che sono irriducibili, hanno messo fine, ancor prima di farlo cominciare, un episodio di pura complicazione diplomatica. Ed è una storia complicata invece quella dei due Marò. Dura dal 2012, ogni fatto diventa un'odissea, e purtroppo tutti i governi che si sono susseguiti, difettando di sovranità, hanno cercato sempre di allungare questa odissea. Lui spera in Obama, e sperando in Obama, sai qual è il vero argomento politico? Questo. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Insomma, chi ha sovranità tratta e vince, chi no, no. Questa è la morale della storiella di Pietrangelo. C'è da dire anche che l'Iran non e l'India sono due diplomazie diverse. Sì, ma anche gli Stati Uniti non sono l'Italia. Sì. Diciamolo. A bolla, Mario. Beh, insomma, questo è Brown Sugar, per chi non la conoscesse, sono i Rolling Stones. Ok, bella musica. E a proposito di sovranità, ecco invece un argomento più serio di quello della lotteria è nell'agenda urgente del Presidente del Consiglio. Sì. Ieri c'è stata una riunione di vertici di sicurezza, hanno partecipato tutti, il Ministro degli Interni, sì, servizi segreti, bla bla bla bla bla. Tema la Libia. Notizia filtrata, non so quanto vera, qua sai le conferme ufficiali non arrivano. Non ci sono. Però insomma, che l'Italia valuta l'uso della forza contro ISIS. Sono stati raccolti rumors già nei giorni scorsi che parlavano di un contingente. Si parla già anche di un patrimonio lasciato da parte Per quelle operazioni, contingente di terra di 6.000 uomini, non ne abbiamo nessuno, la conferma non arriverà, però insomma, da cronisti noi riportiamo questo. C'è una certezza in tutto questo, che noi l'interesse nazionale in Libia lo abbiamo, enorme, perché Eni è il maggior produttore di idrocarburi del paese, il maggior produttore, ribadisco, sono 300.000 barili al giorno. Non è poca cosa in questo momento. L'Eni assicura l'energia elettrica alla Libia, praticamente. Si spegne l'Eni, si spegne la Libia. E vediamo che cosa succede, perché questo, come dicevi tu prima, quando parlavamo dell'Europa e di Prodi, è il capitolo in cui si vedrà se la politica estera di Renzi ha una svolta o meno. Questa riunione fa presagire qualcosa, vediamo. Canzoniere. Mio fratello diventò rosso come la buccia della mela. L'essere preso in giro non solo per l'incipriatura, cui non teneva affatto, ma anche per le ghette, cui teneva moltissimo, e l'essere giudicato d'aspetto inferiore a un ladro di frutta, a quella genia fino a un momento prima disprezzata, e soprattutto lo scoprire che quella damigella che faceva da padrona nel giardino dei Dondariva era amica di tutti i ladri di frutta, ma non amica sua. 800240024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Noi ci siamo semplicemente limitati a puntare molto sul fatto che una serie di versioni ufficiali, di voci ufficiali, hanno perduto una parte notevole della loro credibilità. Ecco, noi abbiamo impostato la campagna dicendo: o credete alle versioni ufficiali, o credete ai discorsi inaugurali, o credete ai bilanci aziendali. Abbiamo anche detto: o credete alla televisione, o credete a Repubblica. Ecco, così Eugenio Scalfari per il lancio del nuovo quotidiano La Repubblica. È il 14 gennaio del 76, il successo non era scontato, ma arriverà e durerà fino a oggi per 40 anni. Buon compleanno La Repubblica, come nasce una grande testata giornalistica? La memoria, le analisi, le rivelazioni, qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mix 24. Mario, c'è ancora una bolla? Eh? Aspetta un attimo, Claudio da Brescia ci chiede che canzone è quella citata da Buttafuoco che riguarda l'incontro in metropolitana, puoi dirgli il titolo? Certo, Maria non piangere. Maria non piangere, Claudio... Maria non piangere. No, vai. Faccio una cosa di cronaca nera che vai con la cronaca da vecchio nera. Cronista è sempre bella. E c'è un sospettato del delitto della ragazza americana morta a Firenze. Ma è il fidanzato? No. No, no, no. I cioè, fonti investigative pare che regga. Adesso qua viene fuori che praticamente è stato visto un uomo la sera di venerdì con Ashley in un locale. I due poi sarebbero usciti insieme e una telecamera li avrebbe ripresi all'incrocio con via dei Serragli, mentre giravano in via Santa Monaca, dove Ashley viveva. Quindi qua adesso cominciano a esserci. E infatti elementi. Stamattina sui giornali il gruppo Carlino, Nazione Giorno, aveva già una notizia che diceva sono vicini alla soluzione del caso. Vediamo, in queste ore secondo me ci sarà un'accelerazione probabilmente. Ecco, noi intanto c'è il vincitore del canzoniere, Eugenio da Torino. Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, il barone rampante Italo Calvino. Giusto. Ottimo. Eugenio, che fa a Torino di bello? Di bello in questo momento sto lavorando, sono in azienda. In azienda? La radio. Che azienda? Ma che azienda è? È un'azienda qui del settore packaging di Torino. E le lasciano ascoltare la radio? Beh, democratici. Sono in laboratorio, c'ho il mio spazio Okay. Personale. Bene, bene, ci segue, ci fa molto piacere. Sì, allora, grazie a Eugenio da Torino. Adesso col professor Roberto Bernabei, come al solito, commentiamo le notizie più importanti che sono apparse sulle riviste top del mondo di medicina. Medicina. Le frontiere della ricerca. BMJ, 25 novembre 2015. Il titolo dottore è anacronistico e un segno di mancanza di rispetto per i pazienti. Questo articolo mi ha colpito perché è la santificazione definitiva del politically correct, di essere sempre precisi, non insultare mai nessuno, essere sempre molto equilibrati nella vita di relazione. In questo articolo del BMJ si dice che il titolo di dottore è anacronistico ed è una forma appunto di mancanza di rispetto dal paziente. Il pezzo inizia con il racconto dell'autore che assisteva a una visita in pronto soccorso. Il medico entra e si presenta dicendo normalmente: io sono il dottor Rossi e mi occuperò di lei. Era una donna che lo guarda con aria un po' infastidita e dopo un po', facendo un sorriso un po' ironico, dice: io sono la dottoressa Bianchi e sono la sua paziente, per dire che anche lei era laureata e che quindi il dottore si doveva rivolgere in un modo diverso. L'autore ricorda anche che certamente c'è un problema di chi comanda e l'autore riconosce che bisogna mettere dei paletti tra chi fa il medico e chi fa il paziente, ma non con il titolo, perché il titolo, secondo l'autore, rende disuguali. Ma che vi devo dire? Mi sembra una franca esagerazione, perché evidentemente forse non è tanto il titolo, ma è il modo con cui uno si relaziona con la persona. Abbiamo detto già altre volte che è importantissimo il rapporto medico-paziente, ma io non credo che sia dire io sono il dottor Tizio che pone un problema, anche perché in una lettera di accompagnamento a questo articolo viene detto da una persona che dice: io sono egalitario e libero pensatore, ma ho conosciuto il disperato desiderio di avere la mia vita salvata da un geniale, vicino a Dio, magnificamente educato e dotato di esperienza, mago. Come dire che poi noi abbiamo voglia, bisogno di averci un medico, magari che solo per la sua presenza ha un effetto placebo e aiuta a guarire dalla malattia. E essere troppo politicamente corretti qualche volta forse è inutile. Per chiudere, Gloria Guerrera, come sempre, ha scelto la nostra canzone Si è spento il sole di Vinicio Capossela. Si è spento il sole nel mio cuore perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Se l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò.